La zanzara è veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Carissimo amico mio Giuseppe Parenzo e Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Buonasera ragazzi. Io sono il solito Fabrizio MCC di Roma, dai, su quello che sarà innamorato della puttana. No, adesso ho conosciuto una sudamericana, una colombiana, una cosa. C'ha una pelle vellutata come una pesca proprio. Ma una cosa spettacolare, guarda. Ciao Sabrina, poi quando sarà più là smetterò, mi troverò una compagna e diciamo metterò la testa un po' più a posto. Come ma scusa, hai salutato una Sabrina prima, che sei andata una mignotta da lei, no? No, un'amica mia, c'è un buco di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio, poi capire una fredda. No vabbè, è la moglie dell'amico, dai, è la moglie dell'amico, ci mancherebbe, è moglie degli amici, le mogli non si toccano. No, no, no, le mogli non si toccano. Ciao, ciao, un bacio. C'ha due chiappe, amore mio. Là ci vuole la nerchia. Caro David, caro David, eccoci qui, carichi qua. Come sempre, carichi come eccoci sempre. Eccoci qua. La signora Rom, capa di tutti i Rom italiani, pseudo rappresentante della comunità Rom italica, chiamata nelle trasmissioni TV in quanto Rom, in quanto più acculturata degli altri Rom, la signora Diana Pavlovic. Ottima ragazza, accusa, brava attrice. Mi accusa, attrice. Adesso non è che si vede. L'attrice. Sì, ma non è che la vediamo, sì, sì, come dire, teatro. Non la vedi, non la vedi sui in teatro, tappeti rossi. Non la vedi in teatro perché stai sempre qui a dire minchiata alla radio. Ma in realtà lei è una bravissima attrice di teatro. Comunque ti ha fatto un 1-2-1-2. Sì, ma quale 1-2-1-2? Sì. E ti ha accusato di una cosa verissima. Fai sentire tutto. Responsabile Cruciani, uno dei responsabili dell'odio. Tu dalla vostra parte, senza ombra di dubbio, ma senza dubbio. Dai. Sì, senza dubbio, perché tu non è che ti limiti a far sentire qui l'odio, che vabbè, quello potrebbe essere anche interessante dal punto di vista sociologico, ma lo difendi. No, cioè, assolutamente difendi il diritto a essere razzisti. E quindi in questo sei complice assoluto di questa porcheria. Sì. Cosa rubavano? Ma che... Allora, fermiamoci un attimo, noi siamo alle immagini, Cruciani, però voglio sentire l'avvocato su quello che avete detto. Però Cruciani è uno di quei responsabili di questo odio diffuso. Va bene, è un'affermazione molto grave. Responsabile dell'odio diffuso. Sì, ma non perché fai sentire questa porcheria che ogni tanto, ma perché la giustifichi? Ma io non giustifico nulla, No, ma è giusto che la gente si esprima, faccia sentire il proprio odio. Allora vuol dire giustificare, il non prendere le distanze. All'odio. Ecco, il diritto dicendo all'odio. Questo ha ragione Diana Pavlovic perfettamente. All'odio. Non c'è nessun diritto come all'odio. C'è l'amore, c'è anche l'odio. Dici una cosa falsa, perché non è così peraltro. Perché ti scaldi così tanto? Stai tranquillo. Perché dici delle minchiate? Perché no, ha ragione Diana Pavlovic. Un conto è far sentire le minchiate e dire lei sta dicendo delle cose razziste, si dovrebbe vergognare, come provo a fare io. Un conto è dire no, ma lei ha diritto a essere razzista. Perché ti scaldi? Perché è un tema cruciale, fondamentale. Tema è un tema fondale. No, è un tema del cazzo quando lo tratti tu. Allora, voglio dire a DJ Francesco Facchinetti, benvenuto nel mondo della realtà, nel mondo reale, che è quello in cui una persona come lui giustamente dice: mi compro un arsenale, perché hanno fatto una rapina a casa del padre. Però siccome lo ha detto lui, mi compro un arsenale, sparo ai ladri se provano a entrare dentro casa mia. Siccome lo ha detto lui e non lo ha detto Salvini, non lo ha detto un becero leghista, non lo ha detto un pazzo, non lo ha detto un criminale, non lo ha, uno che uno immagina sia un criminale, no? Allora tutti zitti. Ha detto: mi compro un arsenale. Contro. Tutti un corno. Tutti zitti, tutti dietro. Bravo. Ma sì, hanno rubato a casa del padre. Tutti chi bravo? Dai. Chi può dire bravo? Mi compro un arsenale. Ma chi ha detto bravo? Tutti applausi. Tutti applausi. Bravo. Giusta reazione. Mi compro un arsenale. Ma quale giusta? La follia. A proposito di difesa personale, scontro tra il gioielliere Zancan e Carabue, e il mitologico Carabue. Fammi pensare, allora, un attimo dove è avvenuta questa cosa, fammici ragionare un secondo. Beh, due programmi possibili ieri. Dunque, su Rai 1 dubito. No, Rai 1 non è. O è la quinta colonna, come la chiami tu, la quinta colonna potrebbe... oppure è dalla vostra parte. Ecco, però parliamo della stessa rete, sempre di Rete 4, assolutamente, no? Sì. Eccola, benissimo. Perché tu dici che più che Rete 4, Rete Odio, dici? No, non ho detto Rete Odio. Sì, Rete Odio. Allora, Zancan, il giornale contro Carabue. Ora io dico, Carabue ti piacerà sicuramente, uno che fa, ma va lì solo esclusivamente per esibizionismo, il signor Carabue. Eccola. È un grande esibizionista. Che è esibizionista? Un esibizionista con questa palandrana. Ci va, ma con questa palandrana. Ma vai a quel paese con quei tuoi capelli sporchi, che vai in televisione anche tu con quei capelli sporchi e prendi in giro il negro con la palandrana. Dai, su, da che pulpito viene la predica? Lui con i capelli sporchi, che non si fa il bidet, che nello studio di Milano non ci può stare nessuno. Questa è l'altra verità da dire. Perché gli amici della Sette e di Bianco e Nero, si chiama Bianco e Nero, insomma, sì, sì. Bianco e Nero di Telese, la verità è che dallo studio di Milano non possono collegare nessuno quando vai tu lì. Sei un costo per quell'azienda, perché puzzi e devono mandare il disinfettante dopo per collegare qualcuno. Gomez, Peter, l'altra volta ha detto: dove mi collegate? Dice: dallo studio di Cruciani. Ah, non è vero. No, mi dovete collegare da casa. Anche il Rom si rifiuta di collegarsi. Il Rom, dovevano venire dei Rom a collegarsi. Hanno detto di no al povero Telese. Ha detto: no, preferiamo stare nel nostro campo, che è più pulito, perché dove sta Cruciani non ci vogliamo stare. Oggi è impazzito. Così hanno detto i Rom. Gli ho parlato, i Rom di Milano. Hanno detto così. Zancan, Carabue, sentiamo. Guardi, non siamo protetti, lo facciamo. Io capisco che lei deve, vendere la sua catena di pistole d'oro. Non so che cosa si sia inventato. Non, no, certo, io non sono qua a fare come... Ma cosa nel stai quale dicendo? Ma cosa ecco, ricordiamo dicendo? Che Zancan è un gioielliere che ha subito rapine. C'è stata anche una vicenda che ha coinvolto un benzinaio. Quindi, il benzinaio Cara Spacchi, Bue, insomma, la morale la vai a fare la tua tribù, non a me. È la gente, no, come me. La vai a fare la tua tribù. Hai capito? Io non ho una tribù. Torna da dove sei venuto. Tu la morale a me non la fai. La morale valla a fare, ma guarda che la tua tribù. E lui ride, ma è razzismo questo? Signor, o no? Zancan, è un professore universitario, ma me ne frego. Ma di Zancan, professore? È un finto professore. Ma io spero che ti è querelli. È un finto professore. Io mi auguro che ti querelli e ti porti via quel poco che ormai hai. Io mi auguro è che ti querelli. È un finto professore. Io mi auguro che ti querelli. Che guarda. Cosa è? Diritto ma delle cosa culture? C'entra? Che cosa ma è cultura? È un finto professore, Carabue. Non è un professore universitario. Stata la mattina, adesso lo chiamo. Stata la mattina la sera in televisione. Pontificare quale professore universitario? Invitano, di cosa? Sputano, professore di che? Di cosa? Chiamo, di un cazzo? Lo sto chiamando. Professore del nulla, professore. Io lo chiamo ora in diretta. Michele? Lo chiamo. Michele? Lo ma che Michele? Lo dai. Sto chiamando in diretta, guarda. Dai. Lo chiamo. Lo torna chiamo in nella tua tribù col bongo, dai. Lo mi chiamo. Dice Zancan. Io non sono d'accordo. Fratello Michele, scusami, sono Valenzo. Ti chiamo Zancan in diretta dalla Zancana. Manda Zancan. Ti volevo dire... Lei è sconosciuto. Ma per tu le sei un ignorante patentato a parlare non così. Non mi insultate, no, adesso no, cominciamo. Ignorante non è un'offesa, è uno che ignora la realtà dei fatti. Lui ignora tutto. Lei è noto per le fesserie che dice. No, a le fesserie le dici tu e torna dalla tua tribù col bollo. Tanto per calmarle acque, andiamo un attimo. perché reputo questa cosa, siamo qua in diretta, vergognosa. Ma che vuole, che no, l'ho chiamato io, l'ho chiamato io. Che vuole, ciao Carabue. Michele, caro, grazie. Ma continua cosa, a Michele? Michele, non ci chiama. Ciao, ragazzi. Ma che dice? È una finta, è una finta università, allora, un finto professore, questo. Carabue, non è Cruciani vero. Cruciani sta dicendo in diretta che sei un finto professore universitario. Poi per cortesia ti do io tutta l'assistenza legale, querelare diventato... Cruciani e portargli via tutto quel poco che ha. Mi fai sto favore, eh? Lui dice che sono un finto professore universitario. Ma no, di una finta. L'ha detto alle 18:44. Ho i nastri qui. Ma sì, ma professori no, sono ma tutti. Anch'io posso diventare professore. È Michele, un finto professore. Michele, dammi un finto retta. Insegnamento. Portagli via ma tutto dai, quello su, che ha. Carabue, professore universitario. Dai, Carabue, un finto. Ma che basta, ma non fare il buonista. Dai, manda ciao, ti chiamo dopo, fratello. Ti abbraccio forte. Mamma mia. Bruciava, vai col traffico, devo cacare, non mi piglia il wifi in bagno. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa credere che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole la nerchie, non la barba, ci vuole la nerchie, che le barbe, quale virilità? Alla fine la prova della verità è sempre la nerchie. Sì, ma riportando... Solo di capire, tagliate queste barbe, non potete fare manca una scarpetta, lo piatto che vi pozzo tutte queste pile. Come facete? Puzzate, fatevi le barbe, cercate di essere ragazzi giovani, anziani puliti, belle. Ma riporta... non che la virilità, quale virilità? Alla fine senza alza la nerchia non c'è. Là ci vuole la nerchia. Sempre lì. È sempre credo lì. Che abbiamo capito, credo che abbiamo capito. Sempre grazie. Lì si va a finire. Grazie. Sempre lì si va a finire. Comunque mi stanno raccontando delle cose di questo Carabue, amico mio. Come mai fu cacciato dalla regione Puglia? Come mai? Risponda, Carabue. Carabue, quello che sta sempre in televisione. Io come mai fu cacciato dalla regione che Puglia? Porti via quel nulla che hai. Spero davvero. Come mai fu cacciato da un assessore della regione Puglia? Ci racconti tutta la storia di questo professore. Professore, ma tra sei virgolette. Il caporedattore dalla vostra parte sei? Professore universitario. Cosa sei? Il caporedattore dalla vostra parte? Ma che c'entra? Che me ne frega? Quindi... Dalla parte di chi poi? Dalla vostra, quella dei bianchi. Comunque, dalla parte dei bianchi stanno bianchi, solo. Che bianchi, basta. Dalla con vostra parte. Solito buonismo ridicolo, dai, su. Allora, si parla di vitalizi. Grande battaglia dal signor Cito e il signor Giordano. Questa volta è quinta colonna, sempre vitalizi. Vampiri! Ma il nuovo libro di Mario Giordano si intitola Vampiri! Quello precedente come si chiamava? Sanguisughe! E cosa c'è nel lancio del libro? Molto più che sanguisughe! Oggi vampiri! Ragazzi, ma di che parliamo? Ma no, ma di cosa parliamo? È vero. No, meraviglioso il titolo, ma è per tutto carità. Vero. Ma la cosa meravigliosa è molto, siccome l'ha scritto già sanguisughe l'anno scorso, no? Allora nella copertina c'è scritto molto più che sanguisughe, vampiri! Ma dai! Ho capito. È vero che sono vampiri. E il terzo libro che cos'è allora? Assassini! Dice, l'anno prima era sanguisughe, quest'anno è vampiri. E il 2018 cos'è? Assassini! Tu allora dovresti avere il coraggio di dire che Mario Giordano incita alla violenza nei confronti dei politici che hanno il vitalizio. No, dovresti essere coerente e dire questo. Ma non dico dai. Niente. Allora, non dico grande niente. Ascolto tra Cito, Giancarlo... diciamo che non è che scelgono proprio uno, non scelgono uno stinco di santo, no, insomma, no, signor Cito, ex, io scusami, se devo... Io sto con Giordano in questo, ecco, tutta la vita. Io, però, se devo andare Cito a cena, preferisco andare a cena con Cito. No, io con Mario Giordano. No, Giordano mi fa due coglioni così, Cito, Mario, Cito hai capito, è divertente, Mario? Un delinquente. Oh, benissimo, prendere nota, sì, Mario, perché lo conosco, via tutto. Perché lo conosco, no, io invece voglio portare via tutto, così, scusa. Perché ti fa bene, hai dato qualche mazzata sulla testa, te. Io vado a cena, no, con Cito mi fa schifo, con Mario Giordano... Banditi è più perché divertente. È una persona molto divertente, Mario Giordano. Comunque, quindi Cito vado con lui. Giordano, sentiamo. Cito ci spiega che dobbiamo parlare degli immigrati. In effetti non ne avevamo mai parlato, grazie. Cito che ci spiega i 35 euro agli immigrati. È vero, non ci avevo pensato, la ringrazio, Cito. Grazie. E lui, grazie. E lui. Grazie. E lui. Grazie. e battete la mano. Se lui rassomiglia, se lui rassomiglia a un vampiro, quella è la faccia cattiva. Io un vampiro. Io vampiro, io non perché sono mai quando stato ogni volta vi dico perché io sto parlando io non sono educata, ma state zitti. Io condanno, ma metti un dito nel naso. No, io il dito quando, lo metto da un'altra parte. Quando io sto parlando, sto parlando, che poi il dito lo metto da un'altra lei parte. Lei deve sentirsi la canzone degli squadri. No, lei si sente la canzone della giustizia. Che io condanno e non ne ho ricevute. Non mi tu quali ha ragione il squadro. Aspetta un attimo, ma è bellissimo. Io ho lavorato oltre 50 anni di là a come si chiama da Mario Mario Mario Mario Mario Mario è stato anche condannato se Dio vuole le hanno tolto il vitalizio se non altro se Dio vuole le hanno tolto il vitalizio io sono innocente devo andare alla trasmissione perché dopo 25 anni bambino hanno detto che io sono innocente. No, il fatto non sussiste. E infatti le hanno tolto. Basta il vitalizio perché è stato no, dito, stia attento che quel dito poi lo metto da parte ma brutto. Ma fammi piacere. Dice adesso lei quanto prende di stipendio al mese. Ma io cosa vuol dire? Ma fammi piacere. Quanto chiedi da sapere? C'è una differenza. Ma stai zitto, stai zitto. C'è una differenza fra gli stipendi. Vai a raccogliere i lupini, vai, vai. Raccoglie le cose, aspetta, non devo raccogliere. I lupini. Allora ragazzi iniziamo con come combatte Marione Giordano, come lotta. E pure l'altro, Andrea, provincia di Pesaro, vai. Cito, è stato sindaco di Taranto, condannato, eccetera, eccetera, gli hanno tolto il vitalizio di recente. Vai Andrea, dimmi. Ciao Luciani, ciao Parenzo. Vai, il dimmi. Il mio Dio, adesso ci sono io. Dai Andrea, non fare, non fare il coglione, dai, parla bene, parla senza auricolare, viva voce. Hanno appena chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari. Io dico che io volevo vedere nelle cabine della Lidl, Rom, Parenzo e Dario Figo rinchiusi. E io che tiro le banane, visto che figata. Ah, che ridere, mamma mia. Andrea, c'è il tuo sogno? Scusami, aspetta, cerchiamo di analizzare. Non c'è da analizzare. Mamma scusa, mia, dove ti trovi? Brr, brr, scusa della firma, farò brr, firma al contrario. Aspetta, dove ti trovi? Andrea, dove ti trovi? Andrea, dove non ti c'era trovi? Ancora l'aborto quando è nato lui, vero? Non è stato introdotto ancora, è stato introdotto dopo. Ma credo di sì. È nato, è nato prima della legge sull'aborto, lui, vero? Andrea, credo di sì, non so. Mi quando pare di nato, dal buco del culo? Ecco, Andrea, fine, 18 e 50. Andrea, dove ti trovi intanto? Dove ti trovi? All'ospedale, ovvio. Che domande fai? All'astra? Dove ti trovi? In una stanza? Hai il viva voce? Hai l'auricolare? Si trova in una stanza con le mani legate dietro. Cioè, l'auricolare Parenzo. Vabbè. Dai, Andrea, non fare il cretino con me, che non attacca. Dimmi, mettiti bene. Ti devo sentire bene. Ti devo sentire bene. Andrea, non È legato al letto, dai. Perché hai chiamato? Andrea, perché hai chiamato? Per sfogarmi un po' con Parenzo, quello razzista al contrario. Cioè? Spiegami perché è razzista al contrario. Sì, perché con la scura del razzismo lui, puramente, dà ragione ai negri e ai rom. Vabbè, vai a fare in culo. Francesco da Roma, dai. Francesco da Roma, dai. Francesco. Buonasera Parenzo e Cruciani. Dimmi. Buonasera. Chiamo da Roma e per stare totalmente d'accordo con Salvini. Analizziamo questa. Tu chiami da Roma per stare d'accordo con Salvini. A prescindere, su qualunque cosa, dai. Riguarda i dipendenti leader. Riguarda i dipendenti. Cioè, la frase è questa, perché io non sono un purista della lingua. Sì, no, allora, no, però mettiamo in ordine. Non vorrei che si dicesse che gli analfabeti votano per Salvini, No. Cioè, non vorrei però che da questo si deducesse che gli analfabeti votano per Salvini. Allora, non vorrei che si deducesse vuoi questo. Ripetere non vorrei, la frase, Francesco. Non vorrei, ripeti non la vorrei. Frase, per favore. Ecco, esatto. Chiamo da Roma. Siamo da Roma, sì. Per dire che sono totalmente d'accordo con non hai detto Salvini, questo, ma comunque sì, ho d'accordo. Poi? Totalmente d'accordo con Salvini e col fatto di difendere i dipendenti della Lidl dillo a parole tue, con i nostri avvocati. Con i nostri, quali avvocati? Avvocati che noi, quali avvocati? Noi, quali? Noi nostri forniremo. Ma noi chi? Ma noi chi? Noi chi? Noi della Lega. Ma noi della Lega chi? Ma tu non sei della Lega, sei Francesco da Roma. Sì. Sì, allora? per prima cosa non sono della Lega, ma sono di Noi con Salvini. Sei di Noi con Salvini. Noi con Salvini. Tu fornisci l'avvocato di che? Quale avvocato? Tu no, io non fornisco niente, però se Salvini vuole fornire... Vuole fornire, allora legale. Tu sei d'accordo con chi fornisce? Sì. E anche sulla fornitura? E anche sulla fornitura? E la fornitura? Gliel'ho detto. No, ma la fornitura, avvocati. Come funziona la fornitura? Sì. Come funziona? Sì. Che se loro hanno bisogno di... Ecco, di no, ma la spedizione come avviene? Nessuna spedizione. Ma la spedizione del cervello ci deve essere prima! La fornitura del cervello ci deve essere, cazzo! Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Siamo il top! Siamo il top! Ma va suca! La zanzara. Calabue, la morale, la vai a fare la tua tribù, non a me. È la gente come me, la vai a fare la tua tribù. Hai capito? Io non ho una tribù. No, le fesserie le dici tu e torna dalla tua tribù col bondo. Tanto per calmare le acque, andiamo un attimo. C'era uno che è andato a prostitute. Sono arrivati i vigili, non stava facendo un cazzo. Perché? Devono rompere i coglioni a chi va a puttana, io ancora non l'ho capito. Quel nano malefico. Scusate, ma avete mai visto un rom lavorare? Mia esperienza personale, 2 anni fa è successo che mi sono ritrovato delle zingare in casa, ero andato a recuperare la legna, avevo un'accetta e non l'avrei mai fatto, ma ragazzi credetemi che le ho minacciate con l'accetta e si sono cagate nella gonna. Siamo top. C'ha due chiappe, amore mio. Andiamo con Gianni, Verona, vai Parenzo, andiamo avanti. Ciao Cruciani. Dimmi Gianni, dimmi. Ah, niente, volevo dire a Parenzo una volta tanto che inviti a casa sua, da il suo indirizzo di casa, e invita un po' di rom a prendere il tè. Ma che novità. È una novità, però non l'hai mai detto. Sei anni che sono qui e non ho mai sentito questa proposta, prenderò in considerazione. Non ho capito perché dovrebbe dare l'indirizzo di casa sua. Potresti dare l'indirizzo di casa tua? Sì, poi col cavolo. Sì, l'indirizzo di casa sua. Invita il rom a prendere il tè, quei biscottini. Il tè con i biscottini a Prati, un gruppo di rom. Non occorre dire dove, insomma. Vabbè, intanto si sa. Abbiamo detto più volte. Si sa un corno. Abbiamo detto più volte. Abbiamo detto più volte, però non l'ha mai fatto. Io lo ribadisco e bene finita. Va bene, Stefano, Roma, vai. Stefano. Veramente, ottima telefonata, grazie. Ciao Giuseppe. Dimmi. Tanto comincerei subito a dire che la Pavlovic è una zingara di merda, tanto per capirsi subito, tanto per già, entrare... giusto per essere chiari, 19:20 Parenzo subito, penna e foglio, penna e foglio, 19:20 domani, cara Diana, Pavlovic, domani sul sito della Zanzara troverai l'audio di questa telefonata e lo potrai querelare. Alle ore 19:20 questo signore ti ha insultato. Aspetta, Stefano. Ti ha insultato. Va bene, allora. Sarà lei ad andare in tribunale. Io glielo segnalo intanto. 19:20. Ma perché non lo può chiamare? C'hai i parenti neri, fratello. Ma che lei che cosa c'ha? Dire cazzate. Ma lei che cosa ha nella testa? Cosa ha nella testa? Ha del mangime per i piccioni? Che cosa ha nella testa? Stefano contesta il fatto che tu chiami Stefano, fratello. Intanto Stefano, ma che fratello è? Stefano intanto non contesta. Stefano strepita, urla. Che si presunta attrice, no? Venisse a Castel Romano, dove i suoi amici rom cominciano a tirare i sassi alle macchine e buttano i frigoriferi e gli skateboard in mezzo alla strada per fare gli incidenti. Però Stefano, tu sei col viva voce, amico mio, dai su, non mi fare incazzare, sei col viva voce, dai. No, non so col viva voce. Auricolare? Non so col viva voce. Che col sei, viva sei voce? In una zona Bluetooth. Stai viaggiando in macchina, non c'hai il telefono attaccato alla bocca. Non ce l'hai. Come attacca... no? Ce l'ho attaccata alla bocca. Sì. Beh, attaccata alla bocca. Allora, tu hai esordito questa telefonata, in questa telefonata dicendo la Pavlovic è una zingara di merda. È una zingara di merda perché va in televisione. Lei l'ha ripetuto alle 19:22, perfetto. 19:22. Perché poi ce l'ha detto pure lui, l'ha detto pure Giuseppe. No, io non l'ho detto, amico, mi hai detto tu. Che cazzo vuoi? Sei scemo, sei. Allora 19:22, quindi due volte è stato detto. Allora, lei è presunta attrice perché forse può diventare famosa, difende questa etnia. Ma però lei come fa a difendere? Che sono indifendibili, a Pomezia, faccio un esempio, vengono la mattina con rotoli dei soldi, con macchinoni e stanno tutto il giorno alla SNAI, belli quelli, bellissimi. Vabbè, è anche pieno di italiani che stanno la mattina e la sera alla SNAI a giocare. Sì, no, ma forse qualcuno degli italiani magari se ne è guadagnati. Hai visto mai te un rom che lavora? Mai. Mai. Ma perché contestavi a Parenzo il fatto che chiamasse fratello il signor Carabue? Non ho capito. Ah, perché Carabue è suo fratello. No, vabbè, no, è un'espressione. No, vabbè, vuol dire che un parente di Parenzo è nero. Ma di che cavolo stiamo parlando? Alessandro da Padova, dai, stai zitto, Stefano. Alessandro Padova, dai. Ciao. Non mi sembra. Alessandro, vai. Ciao Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi Alessandro, dimmi. Volevo raccontarvi il mio sabato sera. Sì, che hai fatto sabato sera? C'era una festa a Venezia di carnevale. Sì, come sempre, io... sì. Esatto, e mi sono vestito con i miei amici da Mussolini, Hitler e Stalin. Mm-hmm. Vabbè, se le piace così, figurati. Allora? E, no, niente, la reazione è stata che la gente che c'era in giro, insomma, tra molti che venivano a chiederci le foto, qualche nostalgico, qualche coglioncello. Mm. Vabbè, allora? E dopo, a una certa, abbiamo trovato una coppia di zingari, no? Allora? Gli abbiamo dato ironicamente l'elemosina, ossia Hitler gli ha dato l'elemosina. Sì. E la zingara, di tutto rispetto, gli ha sputato sulla mano. La zingara ha sputato sulla mano. Ben ottimo. Del finto Hitler. Vabbè, se uno si veste da Hitler, può anche immaginare che ci sia qualcuno che magari non capisce. Ma nessun problema. Infatti, era una cosa da mettere perfettamente. E che è successo poi? Da lì, piano piano, ho iniziato, sì, italiani di merda, vi piscio in bocca, coglione, ti vesti da Hitler, noi ci ha ammazzato tutti, così cos'ha. Vabbè, però, cioè, il discorso è che la figura è morta, fatta e finita, cioè, se ti metti qua a rompere i coglioni con il classico Hitler, fascista, nazista, sborate varie, va a finire sempre i casini. Vabbè, noi allora... gli abbiamo risposto molto diplomaticamente e gli abbiamo detto, vabbè... Vabbè, ma perché ci racconti questo episodio? Spiegami. Beh, perché ci hanno rotto abbastanza le palle, insomma. Vabbè, è episodio di cui non ce ne può fregare di meno. Raffaele da Bari, vai, Raffaele. Vai, no. Dimmi Raffaele, sì, dimmi. Volevo dire che come al solito Parenzo non ha capito un cazzo di quello che ti parla. Piacere, buonasera. Per esempio di che cosa? Scusami Raffaele. Avete fatto una telefonata ieri che era davvero uno schifo. Volete venirmi a dire che una persona che è depressa può decidere di uccidersi? Sì, assolutamente sì, l'abbiamo provato, assolutamente, certo con qualche difficoltà in più, con qualche carta burocratica in più, però è possibile farlo, è già successo. Una persona estremamente depressa non capisce nulla di se stessa, vuol dire che ha dei problemi mentali. Sì, ma non è sempre così, naturalmente, ci sono persone che hanno deciso. E chi lo decide? Il certificato falso che gli ha detto di fare? No, non ha detto che è falso, non ha detto che è falso, ha detto di non dire al medico che era per l'eutanasia, ma per un'altra cosa. Mentire a un medico che... Vabbè, ma Raffaele, con chi ce l'hai? Non ho capito con chi ce l'hai. Con Parenzo che diceva sì, no, ma va bene. Per una volta è riuscito a far dare ragione a Dalinolfi, che anche lui veramente... Cioè, ma non ho capito ragione su che cosa, non ho capito. Sul fatto di quella telefonata. E allora cosa vuoi di questa telefonata? Non ho capito. Cosa vuole da me? Non ho Parenzo capito. Ieri ha detto che per lui è normale che un depresso chiami un'associazione che si occupa di eutanasia e si faccia ammazzare da in Svizzera è possibile farlo, anche questa era la dimostrazione. Questo è il punto. La telefonata che abbiamo fatto. Quel sistema non funziona. Ma non lo so, tu secondo te non va bene, ma è legittimo che tu lo pensi, ma che c'entra Davide? Non ho capito. Perché ha detto come sempre, la ma sei d'accordo con questa ho cosa detto qua? Ma sei d'accordo, punto. Che esso poi si può in Italia regolamentare in altro modo ed escludere i depressi, ma adesso non stiamo qui a fare un convegno di cose deve escludere o no. Lì chiaramente è possibile. Punto. Ed è legittimo che se uno vuole può porre fine alla propria vita, secondo me, ma che ne so io, se è accertato che è depresso al 100%, che è stato 50.000 volte da uno psicologo, uno psichiatra, e questo non è servito a farlo stare meglio, se va lì, firma dei moduli e dopo un colloquio, non è che uno va lì e dice salve, vorrei morire, dice ah prego, si accomodi, le diamo subito l'iniezione letale. Non funziona esattamente così, come sa, come ha dimostrato il racconto di DJ Fabo, anche lì lui è arrivato, ha fatto i colloqui preliminari, hanno cercato di capire quale fosse davvero la sua volontà, non è che lo fanno in automatico, quindi che cosa vuole da me non ho mica capito. Luca da Como, vai. Ciao Lorenzo, ciao Cruciani. Vabbè, io stavo intervenendo, mi ero prenotato per l'argomento Rom e quant'altro, però vedo che adesso siete già... Non siamo su nulla, puoi dire quello che vuoi, vai. Posso dire quello che voglio, beh, dico solo che purtroppo la verità è che il nostro paese è diventato ormai un ricettacolo della feccia di altre popolazioni, cioè? Mi spiego meglio, cioè il popolo rom, per carità, è un popolo anche divertente, un popolo in che senso divertente? Io non ci trovo niente di divertente, però se tu un popolo festoso, un popolo festoso di che? Creativo di che? No, andiamo a vedere anche gli artisti storici, ce ne sono parecchi che hanno l'origine. La verità è un'altra. Qual è? La verità è che in Inghilterra, in Germania, il popolo rom si è integrato perché è stato costretto a rispettare le regole. Oggi gestiscono campagne, gestiscono la compravendita dei cavalli, di animali in genere. Però è gente che opera con i loro usi e costumi, però sono integrati. Peccato che in Italia il grosso problema che noi abbiamo, che non penso che risolveremo a breve, è che abbiamo un sistema giudiziario che fa cagare. Che fa cagare, che non assicura la giustizia. Va bene, Marco da Roma, vai, non c'hai niente da dire, dai, Marco da Roma, dai. Ehi. Marco. Vabbè, dai. Dovete chiudere, cornuti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, per la prima volta sono riuscito a far ascoltare la mia ragazza 10 minuti di fila di Zanzara, è sconvolta. Parenzo va semplicemente denudato e gettato alle ortiche. Esco dall'università, un coglione in macchina mi insulta, io gli rispondo piacere Parenzo, e lui col mezzo sorrisetto mi risponde ma vattene a fanculo te Cruciani. Allora, questo è il mio testamento. Sì, chi è? Anche io, se mi trovo nelle condizioni di Parenzo, voglio fare l'eutanasia. Se divento scemo come Parenzo, voglio l'eutanasia. Sì, si accomodi, si accomodi, è già pronto, prego. Abbiamo capito. Allora, si ragazzi, la cosa è molto semplice. La cosa è molto semplice. C'è quel coglione lì che chiama, dice la cosa è molto semplice. Se volete chiamare 800 24. Comunque, la storia raccontata ieri dalla ragazza di Bologna, Silvia, su uno che si è avvicinato a uno studente dentro una biblioteca è falsa. Si è masturbato, è totalmente vera. Vabbè, cioè, che è stata confermata. Ma che schifo, che vuol dire che schifo? Una cosa che è successa. A te piace anche questo? Ma no, ma non è che piace, ma figure se mi piace. Era vera però, ma è schifo quello che succede nelle biblioteche, no? Quella roba là, certamente. Il fatto che non ci sia controllo, uno può mettersi. Ma scusa, secondo te la biblioteca di Washington, dell'università di Washington, arriva a Bologna, che è uno schifo, mi hanno raccontato. Non c'è controllo, non è che la biblioteca dell'università di Washington arriva uno e si masturba. Abbiamo capito. Su, risentiamo Silvia di ieri. Risentiamo tutto. Una porcheria. Ma non me ne frega niente, le cose vere sono quelle che vanno sentite, vai. Silvia, Bologna, vai. Sì, ciao Cruciani, ti chiamavo per raccontarti un fatto che è successo oggi nella biblioteca di Bologna. Io sono una studentessa, è successo più o meno quello che è successo già al 36. Un ragazzo si è masturbato ed è venuto su una ragazza. Tutto vero confermato. Questa è l'università di Bologna. Questo succede in alcune aule dell'università di Bologna, dai. Invece in provincia di Macerata, amico mio, succede l'ennesima vicenda che riguarda un carabiniere che spara ad un'auto in fuga, un'auto di ladri in fuga. Sì, sì. Il colpo sparato dal carabiniere, che credo avesse sparato per la prima volta, uccide l'albanese. Prima c'è l'alt, l'auto è rubata, Stava per investire lui e un altro collega. Siamo a Monte San Giusto, Macerata. C'era un documento, questo tizio con i documenti albanesi, alcuni oggetti d'oro dentro la macchina. Il tizio è morto, ovviamente il carabiniere accusato di omicidio colposo, quello che è. Questa è la situazione, capito? Questa è la situazione. Vabbè. Vedremo come si evolverà la storia. Ecco, vediamo appunto. Questo Monte San Giusto, Macerata, Giuseppe, provincia di Alessandria, vai. Buonasera. Dimmi. Senta, volevo raccontare soltanto due aneddoti che mi sono accaduti personalmente. Sì. Uno, mi ero appena sposato, avevamo preso un appartamento in affitto e subito dopo sono entrati due zingari e mi hanno messo sotto sopra l'appartamento. Mia moglie tra l'altro era incinta. Sì. Allora? E ha trovato tutto messo sotto sopra. Sì. E questo erano due zingari. Sì. Dopo qualche mese mia suocera era in giardino, sono passati degli altri zingari, gli hanno chiesto se gli potevano dare da bere. Sì. È andata in casa, ha preso l'acqua da bere, gli ha portato i bicchieri, gli ha dato da bere e nel frattempo gli hanno strappato la catenina d'oro e sono fuggiti. Sì. Questi sono gli zingari. Poi non ci sono altri commenti. Questi da fare, sono, no? Dei ladri, dei farabutti, senza ombra di dubbio. Certo. Però dice Giuseppe, il tasso di farabutti, il tasso di farabutti e di ladri all'interno della comunità rom è inutile, è così la realtà. Evidentemente è superiore, come se uno fa un calcolo. No, l'esperienza di Giuseppe lo dimostra ampiamente. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro. Ora, non è che tutta questa gente che chiama e che si fa sentire contro i rom è semplicemente perché c'è un pregiudizio, perché c'è, come dice la signora Pavlovic, una sorta di clima nazista nei confronti dei rom. Non c'è nessun clima nazista. Rispetto a 40.000 persone che vivono in Italia, sembra essere il problema principale. Sono liberi di fare quello che vogliono in Italia. I rom sono liberi di scorazzare in Italia, di fare quello che vogliono. Vengono portati in galera i ladri in genere. Ma sì, però in Italia nessuno li attacca. Sì, ci sarà qualche piccolo episodio, per carità, esecrabile. No, ma non è che c'è l'assalto ai rom. C'è l'assalto agli italiani da parte dei rom. È diversa la cosa. Cioè, l'assalto agli italiani? Beh, sì, l'assalto agli italiani, ai cittadini, ai residenti in Italia, che siano italiani o meno. Cioè, le persone che lavorano normalmente, che hanno una casa, vengono spesso presi d'assalto. E ovviamente non è che tutte le rapine sono opera dei rom dentro le case, però all'interno della comunità rom il tasso di furfanti è elevato, sì o no? Ma perché non lo si vuole ammettere questa cosa qua? Cioè, sono anche dei ragazzini tante volte. Sono dei minorenni, li vengono a prendere, li caricano e poi li lasciano, cioè sono sempre gli stessi. Renzo, ti dico una cosa, la Lega ha annunciato un presidio sabato su questa cosa del carabiniere. Salvini atteso a Macerata. Atteso a Macerata. Appena si vede un carabiniere no, indagato per omicidio colposo, quello che è, per avere sparato, un atto, come sai, è un atto dovuto, no? Quello poi speriamo sarà sicuramente prosciolto. Sparo sull'auto in fuga. Indagarlo è un atto dovuto, come tu sai, come dovresti spiegare. Sparo sull'auto in fuga, atteso Salvini. Atteso Salvini, benissimo. Atteso Salvini. Ogni volta che ci vuole, prego, vada Salvini. Ezio da Pescara, vai. Beh, sciacallaggio, beh, secondo te, beh, naturalmente. Ma no, ma che fa politica su queste robe? Fa politica sul fatto che un magistrato lo ha indagato per un atto dovuto, per forza, e poi verrà prosciolto, ovviamente. Ma intanto dovrà accertare sono avvenute le cose. No, Ezio Pescara, non lo so. Sei pronto, in lista. Quando si va, dove ti si può votare noi con Salvini? Ezio. Chi? No, Alessio Cruciano. Alessio, va bene, dai. No, scusa, dicevo Ezio. Allora, intanto volevo fare una piccola premessa. Io faccio parte del popolo che sta in silenzio e sono sempre a favore per Parenzo. Della maggioranza silenziosa, ma siamo in tanti, lo so. Sei un mito, guarda, sei veramente un mito. No, ma allora siamo qua tutti, anche voi che mi date forza ogni giorno, figurati. Poi una cosa, Cruciano, qua veramente, cioè, vogliamo andare avanti, ma stiamo indietro veramente di mille anni. Allora, generalizziamo un po' troppo sui rom. Io ti parlo così perché io sono fidanzato con una rom. Oh, Ezio, Alessio, anzi, fidanzato con una rom. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Ecco, di strano? Ma come sono le rom sessualmente? Eccolo là, la domanda. Sessualmente, le rom, come sono? Parenzo, lo sapevo, per favore, aiutami, perché con così. Voglio capire, Alessio, però è curioso questa, perché è la prima volta che io scopro qualcuno che è fidanzato con una rom. Ora, questa rom, dove? A Pescara c'è una grande comunità. Donne e uomini, quindi uguale. No, ma assolutamente, però sarà una rom integrata, immagino, una rom così di antiche origini zigane, in realtà sarà molto integrata, immagino, eh. Ti dico la verità, tutta no. la famiglia della mia ragazza lavora, paga le tasse. Appunto, sono integrati, sì, ma a Pescara c'è una grande comunità rom integrata, alcuni no, ma insomma. E dunque, hai detto che è integrata, io... bravo. Ma sì, assolutamente, beh, immagino che sarà integrata. Ma se fino a due minuti fa hai detto che erano tutti dei ladri Alessio, farabutti. Ma dove abiti, in un campo oppure in una casa normale? Una casa normale, lavorano, pagano la fine. Ma allora non stiamo parlando di quelli che stanno nei campi, stiamo parlando di un altro tipo di rom, ma ce ne sono tanti di rom che sì, lavorano che e sì, fanno tutto, ma cioè, che tanti. È inutile sentire di no, rom è venuto a rubare, ci sono anche... Ma io sto parlando di quelli che stanno nei campi, non di quelli che sono ormai sono rom di origine, ma che ormai sono totalmente integrati. Che vuol dire? Ma quelli non danno nessun fastidio, quelle sono persone come me, come ma lui come ti te. Sta dicendo proprio questo. Ma che sessualmente i rom come funzionano? Una rom sessualmente come funziona la signora rom? Come una qualsiasi persona, Cruciani. Cioè non hanno qualche particolarità, qualche dettaglio, Lorenzo, qualche... scusa la volgarità, hanno due tette, un culo e l'apparato riproduttivo, quindi... normale, sì, normale, normale, normale. Quando ci vuole, allora messaggio per la maggioranza silenziosa, cioè, c'è una non cadiamo nelle provocazioni di Cruciani, usiamo le parolacce solo quando necessario, messaggio alla maggioranza silenziosa, non cadete nelle provocazioni, no, usiamo dire... la parolaccia quando necessario, voglio dire ad Alessio, sì. c'è una ecco la carnagione olivastra della tua fidanzata o no? Sì, lineamenti anche particolari, molto indiani. Lineamenti indiani, ti piace questa cosa qua un po' esotica? Le piacerà te. Evidentemente, beh, no? Se la sì, fidanzata... Piace, una ecco, ma per esempio le rom si depilano o no, le signore rom? Ecco, Crucia, poi dipende dalla persona. Mo, sì, ma c'è una tradizione da questo punto di vista selvaggia, viene mantenuta oppure... Che io sappia, no, non c'è nessuna... Non c'è, ma questa qua non è rom, è italiana, vabbè, di origine rom. Vabbè, maestro, stai raccontando, io sono fidanzato con una rom, come avessi presa dal campo Zingari. L'hai trovata, l'hai conosciuta, ragazza normale che ha antiche origini zingane. Sì, però giustamente col pregiudizio che c'è oggi, sentire a dire guarda io sono rom, allora uno se ne andava. Ma chi la me, ma è rom, di origine rom, lontano. Però stai attento, amico mio, ti do un consiglio. Ecco, da quanto tempo sei fidanzato con questa qua? Due anni. Vabbè, ecco, ma come c'è il mondo oggi? Ma devi stare attento, amico mio, devi stare attento, perché non si sa quello che può accadere. Sai, sono famiglie molto chiuse, sono cose molto complicate. Ma non è vero, Cruciani, non è vero. Non sgarrare, io ti do un consiglio, non sgarrare. No, se la devi lasciare, lasciala senza traumi. Cioè, no. Le corna se le devi mettere. Cosa stai insinuando? Cioè, se devi scopare adesso. Altrove. Ma cosa lì, stai insinuando adesso? Lì ho sentito che si affrontano, per carità, anche gli italiani succede, perché gli italiani che sfregiano le ex fidanzate, scusa, sì, di cosa stiamo parlando? Però, avventurando su un sentiero vagamente razzistello, no, però, e su stereotipi pazzeschi. Alessio, ti do un consiglio, se non fare cazzate, se la devi lasciare, lasciala in tranquillità, perché non si sa mai. Vabbè, te fanno una spedizione punitiva, te spezzano le gambe. Perché invece gli italiani non lo fanno, amico mio. Comunque, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né pensamenti. Alle elezioni vota Salvini, via i rom. Chiudi una gabbia, poi con un piccolo iPhone riprendi le rom urlanti, prendi i voti. Poi arriva Salvini e difende i due italiani criminali, li mette subito in lista di noi con Salvini. Metti il tuo voto su quella piccola scheda elettorale. Spariranno tutti i rom dall'Italia. Figlia della libertà. Prendi voti con quel razzista. Allora andiamo con Barin. Barin, vediamo. Senti. Perché basta che l'immigrato si appoggia a una ringhiera e a quella ringhiera dopo mezz'ora ci si appoggi un bambino, quel bambino si prende la scabbia. Oh, niente di male, ma ci mancherebbe altro, la scabbia. Ma noi viene ogni settimana, come fosse il raffreddore ci viene la scabbia. Vergognatevi, vergognatevi. Ma cosa dice Marino? Delirio. La scabbia. Un immigrato si appoggia alla ringhiera e attacca la scabbia ai bambini. Ma questo italiani. Era. Sì, questo cos'è per te? Questo che è un po' razzismo. Sì, questo è un po'. Un po', meno male. Il potere. Ascoltatori. Sentiamo. Ascoltatori, ecco sentiamo. Che arrivano. Sentiamo. Sfonda il muro di il sindaco di Rovigo della Lega, se non sbaglio, ha raccontato che ha ricevuto dalla prefettura una comunicazione di avviso di attenzione per la malaria. E diceva, certo, non abbiamo qui la zanzara anofele, però abbiamo gente che ha la malaria in corpo. La zanzara, beccando queste persone, può attaccarla a noi. Gli è arrivato dalla prefettura. Se lo contattate ve lo dice, visto che non c'è il rischio della salute, c'è anche il rischio malaria. Il rischio malaria, Rovigo. La stupidaggine più grande mai sentita, mai. Ancora. Ci stiamo adeguando al fatto che non si chiamano più clandestini, ma migranti. Io però non ci sto, li chiamo parassiti. Questi parassiti sono costati 2.604 miliardi rotti. Aggiungete che i detenuti di questi parassiti sono 18.500 e costano quasi un miliardo all'anno. Poi aggiungiamo la scuola, la sanità, eccetera. Questo è il costo totale di questi parassiti. E dai parassiti si passa al terrorismo. Guarda oltre i monti. Gli 007 stanno dicendo che siamo in pericolo di attentati terroristici. Quando ci sarà il primo morto italiano, io invito tutti gli italiani a prendere questi deficienti coglionazzi di sinistra comunisti e attaccarli come abbiamo fatto a Piazzale Loreto con qualcheduno. Appendere quelli di sinistra a Piazzale Loreto. Benissimo, è vero. Ancora Varin. Ancora Varin, avanti. Vai. Col razzismo ancora. Il cervello della ZA sono quelli meglio, ascolta lui, no? Pensa agli altri a che livello possono essere. E sono qui a pontificare, a rompere i coglioni a noi, ma che vada al suo paese a aiutare i suoi fratelli, che non sentiamo la mancanza di quei beduini lì con la sciarpa. Grazie caro, ma è il bello che i suoi fratelli algerini, visto che la Zara è algerina, arrivano, sbarcano, sono sbarcati l'altra settimana a Sant'Antioco in Sardegna, tutti ben vestiti, eccetera. Allora, qui dobbiamo risolvere un caso, caro David, al di là di Radio Calabria, ex Radio Padania, dobbiamo risolvere il caso di Lucia da Pordenone, la nostra puttana, la nostra puttana, come si diceva per Gheddafi, no? Era il nostro figlio di puttana, lei è la nostra puttana, lo diceva, lo diceva Borghezio, Gheddafi era il nostro figlio di puttana e dovevamo conservare il nostro figlio di puttana. Qui Lucia da Pordenone è la nostra puttana, quella del camper a Codroipo, lavora, l'hanno multata. È una cosa gravissima quella che è successa, una cosa di una gravità assoluta. L'hanno multata perché ha messo il camper in sosta vietata. Ma messo. No, il camper sta sempre fermo. Lucia, allora? Lucia. Pronto? Sì, Lucia, sì. Cara. Eccola, Lucia, cara. Guarda, non mi chiamare puttana, chiamami studentessa di Bigoli. No, ma come studentessa di Bigoli, amica mia, scusa. Cioè, professoressa di cazzi, diciamo. Sì, si capiva lo stesso senza usare cazzi, però è più chiaro, professoressa. No, era chiaro uguale, ma non importa, andiamo avanti. Parenzo, non fare... Allora Lucia, spiegami quello che è successo, come allora, ti posso aiutare? Ascoltami. Spiegami. Sì. Aspetti che adesso chiamo il direttore napoletano, non vorrei si perdesse questa notizia, chiamo il direttore del Sole, non vorrei mai che perdesse in Lucia, prima pagina. Lucia, la puttana di Pordenone. Ecco, esatto, non sono vorrei mai. Sono stata multata. Ecco, non vorrei mai allora, si perdesse questa. Sono arrivati i carabinieri scoop. Con l'ordinanza del sindaco di San Fior. Aspetta, dimmi il sindaco e me lo inculo subito. Come si chiama? No, ecco. Il sindaco è della Lega. Io vado è uguale. La Lega. San Fior, come si chiama? San Fior. Il comune San Fior. Si il chiama. Comune San Fior. Ordinanza? Arrivano i carabinieri. Sì. E mi fanno, signora, lei devo dare la multa. Di che cosa decido? Sì. Non può stare qua. Chi ha detto? Appunto. 100 euro. Il mio magnaccio. Come il tuo magnaccio, non ho capito. Il mio magnaccio, ogni sera viene, mi fa la multa 100 euro. No, ma tu col cazzo che paghi, naturalmente. Io ma non pago ma neanche a morta. Preferisco dare 1000 euro a un avvocato che me lo toglie. Allora, questo è molto interessante. Allora, non ho capito, c'è qualcuno che viene lì ogni sera a Codroipo, vicino no, a Codroipo. No, Codroipo a Treviso, quelle parti là. Insomma, non dove stai tu con sto camper, che non mi ricordo io più. Io giro.

No fare culo, come diceva la famosa cinese dell'altra volta. Ma che ci vai a fare con una? Quanti anni hai? Scusami, Lucia. Io ce l'ho 60. Ma che uno che ci va a fare guanti con i guanti? Ma perché devo dare per forza il culo? Non so, io signora, io a me non signora, io no. Ma non mi interessa. Ma perché uno deve sentire sta roba? Non me ne frega niente. È una porcheria. Ma è una porcheria sta roba. Non me ne frega niente di lei, di quello che fa. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, chiudila sta vecchia qua, basta. Ma che ridi, chiudi sta vecchia, fermi! Basta, chiudi sta vecchia. Parenzo, che tu sei il più grande culatore del mondo. Lasciativo, Parenzo, e alla defecarsi io non ci penso. C'ho due chiappe, amore mio. La zanzara. Ecco come rovinate le persone voi. Vi scrivo da Shanghai, ieri sera ero con una cinese in camera e quando a un certo punto mi ha porto le terga, mi sono fatto delle domande, ma quindi tutto quello che mi hanno insegnato la zanzara è sbagliato. Scusa David, mi puoi spiegare per quale motivo lo Stato ti deve lasciar libero di morire da solo, e io sono assolutamente d'accordo su questo, ma non ti può lasciar libero di andare a puttane? Grazie, ciao ciao. Parenzo, puoi chiedere al rabbino se mi può dare qualche consiglio? Sono due giorni che non mi seguo, ma ho un mal di palle. Ma perché devo dare per forza il culo? Non so, io è vergine. Parenzo, stai zitto, ciucciacazzi, stai zitto. Stai zitto, ciucciacazzi. Allora ragazzi, andiamo a Modena, da Simone. Devo dire che Lucia questa sera particolarmente in forma dal suo camper, evidentemente la multa presa da vari sindaci, non ho capito bene Lucia, quale sindaco deve averla. L'anziana prostituta, l'anziana prostituta. Magari uno dice chi è, magari no, una, detto una commentatrice, una scrittrice, una, no, un'anziana prostituta. Vabbè, non ho capito, che si non è ha diritto di parola, che si è non ha diritto certo, di parola, ma che non si è risentita, non perché l'ho chiamata. Ti senti superiore? No, ti senti superiore? Sì, sì, sì. Dillo. Alla signora? Sì, alla signora Lucia. Sì, oggettivamente, sì. Oggettivamente, sì. Oggettivamente mi spiace doverlo dire, sì. Sì, sì. Come se chiamasse Stiglitz, mi sentirei inferiore a Stiglitz. Chiama la signora Lucia da Pordenone, mi sei un po' superiore, mi sento. Chiedo scusa se è così. Ma da che punto di vista superiore? Questo voglio capire. Ragazzi, ma l'avete sentita, povera. Vabbè, ma ho capito, ma poveretta, che è problema. Tu non ti senti superiore a Ser Lucia? No. No, superiore. No, francamente senso, no. Con esperienze diverse, diciamo, formazioni diverse. No, vabbè. C'ho due chiappe, amore mio. Ancora con sto maiale. Ma qua chiamate la gente bestiale, bro. Allora, voglio farvi ascoltare che qualche... poi questo che fate risentire, sì. Che fa gli apprezzamenti sulla moglie del suo amico. Cioè, ma ragazzi, ma mai ti rendi conto? Ma allora che facciamolo livello... sentire tutto, dai. Allora, no, no, a questo punto facciamolo capito, sentire basta, tutto. Basta, tipi basta. Da zanzara, vai. Stasera andiamo così, tipi da zanzara, vai. Tipi da zanzara. Fabrizio Roma, ecco. Vai. Dimmi. Buonasera, regà. Dimmi. Allora, sì. Niente, volevo solo intervenire di una cosa su cui i due ragazzi de Follonica del Todis. Allora, non potevano fare quello che hanno fatto solo perché non sono, diciamo, operatori di pubblica sicurezza o carabinieri. Però tecnicamente non c'è reato. Perché? Perché siccome non sono classificati come persone o esseri umani. Ma chi? Questi, i rom, i zingari, chiamali come te pare. Ma, cioè, chi, ma sono semplicemente combustibile per caldaie. Tecnicamente non è reato. Tu sei serio o stai facendo così per cazzeggiare? No, io sono serissimo. Non lo potevano fare perché ovviamente loro non sono né polizia. Cioè, secondo né te i rom non sono umani? Non sono umani? No, non sono combustibili, sono classificati come combustibile per caldaie. Io non so insomma, che livello di civiltà siamo, che però, dai, civiltà, non che stai disastro stai siamo arrivati. Ragazzi, tu stai dicendo una cosa così per esagerare. Non io non so come bruciati vivi, persone simili li fai addormentare e poi dopo li utilizzi negli anni 30 persone simili erano quelle che aiutavano a mettere gli ebrei nei vagoni, persone simili. cioè tu li elimineresti, una cosa terribile con un'apparente tranquillità. Ciao Sabrina, ma non così a Polo, Sabrina? Cioè, capito, perché dopo la banalità del male e spese per metterli via, per seppellirli, cioè, vabbè, ma allora, capito, capito? Ma valorizziamoli. Ma io no, io sono il solito Fabrizio NCC di Roma, dai, sono quello l'NCC, che sarà innamorato, sì, dalla puttana. Ah, la cinese, quella, dici, la cinese. Esatto, la cinese. Ma poi se adesso mi sono ricordato, un po' di tempo che non chiamavi. Ma io non ho capito, sì, ma un po' che non chiamavo, ma sta cinese poi alla fine? Non c'è sta più, non c'è più. Non c'è più la cinese, sparita, no, la cinese. No, poi sinceramente ho anche un po' cambiato, diciamo, genere, bravo, esatto. Vedi, vedi perché tu mi piaci, perché se capiamo al volo, anche solo, ma per telefono. Esageriamo, insomma. Ma io non ho capito, hai cambiato genere, che non vai più da puttana cinese, da chi vai? No, adesso ho conosciuto una sudamericana, una colombiana, una cosa, c'ha una pelle vellutata come una pesca, proprio, ma una cosa spettacolare. Ma dove? Dove sta puttana? E anche lì tu ragiona Sgarbi quando dice che il profumo c'ha la sua parte nel sesso. Ma io non ho capito una cosa, ma dove vai adesso da questa qua? Sta a Monteverde, sta sempre qui in zona da me, io da Monteverde, io qui vicino all'Eur. Tariffe? Di questa South American? Ma che gli chiedi? Chi se no, ne frega? 50 euro, da, sì, da, scusa, possiamo rispondere a Davide, 50 euro. 50 euro la colombiana, ma appartamento suo, sì, tutto? Appartamento, sì, sì, con preservativo ovviamente, vabbè, ma terzo protetto, beh, quello, beh, che cazzo è normale. Vedi che sono lucido, Davide, o vedi che sono più che lucido. Che tra l'altro, questo fatto dei mignotti dovrebbero istituire una specie di certificato medico, perché sì, siccome sono benefattori del sesso, sì, perché tu quando esci dall'asta sei sicuramente più rilassato. Beh, se mi potessero tutto passare almeno i preservativi, che ne so, invece di pagarli 8 euro li pago 3 e mezzo, sì, per dire. Sì, questo è giusto. Hai salutato una Sabrina prima, che sei andata una mignotta da lei, no? No, anzi, un'amica mia, c'ha un pulso di culo, c'ha 52 anni, c'ha due figli, c'ha due chiappe, amore mio. Beh, speriamo che i figli, speriamo che i figli ascoltino. Beh, bravo. L'amico. Speriamo che l'amico senta, guardi. Sì, speriamo che l'amico senta, guardi. Tipi da zanzara. Bene, ragazzi. Chiappe, amore mio. Sì, certo. Com'è? Com'è? C'ha due chiappe, amore mio. Simone Modena, vai. Ciao Lorenzo, ciao Cruciani, dimmi, buonasera, dimmi a tutti ragazzi. Vai. Ascolta, ma questo nuovo idolo qua di Salvini, il carabiniere che ha sparato a questi albanesi in fuga, fatemi capire, ma sì, questi ladri si sono rivoltati anche loro, hanno sparato, hanno offeso anche loro per, in primis. Allora, comunque, innanzitutto hanno cercato di investire questi carabinieri, era un posto di blocco, c'era una refurtiva, ragazzi, se un carabiniere non può sparare in questa situazione. Tu sai già la dinamica di tutto. Non so la dinamica esattamente, da quello che ho letto, poi mi posso sbagliare. Quindi, se la dinamica è diversa. Nessuno sta contestando niente, stiamo contestando io mi sono credo rotto il civile, mi sono rotto il coglione, ma cambia la legge, io e il civile ascoltatore che sta chiamando stiamo mettendo, sì, in evidenza due fatti. Primo, sì, atto dovuto che la magistratura, vabbè, ma questo è scontato, verifichi, che atto dovuto, no, nessuno dice il contrario, dai. Il tuo leader di partito Salvini, che ti candida ma alle prossime elezioni politiche, ti posso assicurare, che alle prossime elezioni politiche, no, io ti dovrebbe, no, far fare il portavoce del suo movimento, no, assolutamente, sta, al limite un posto senatoriale al Senato, al Senato della Repubblica, lucrando, sì, su questi fatti di cronaca, ignorando, sì, il fatto che quello dell'indagine è un atto, sì, dovuto, visto che, vabbè, di mezzo, ma questo lo sappiamo che è un atto, no, dovuto, ma allora però bisogna, ragazzi, dire le cose come stanno, la cosa è molto semplice. Da quello che sembra, questo carabiniere, qui, che era la prima volta che sparava, però ha la pistola e dunque poteva sparare tranquillamente, e il ladro con l'auto rubata, con a bordo anche una piccola refurtiva, che siano là, che siano, no, là, perché nessuno lo mette, va bene, non è però che bisogna sparare per forza i ladri, questo auto, oh, questa, ma questo non c'è il dubbio, sottotesto, no, quest'auto stava in sottotesto, vabbè, di Salvini invece è spara, tanto chi se ne frega, intanto spara, vabbè, Simone, intanto che cosa vuoi dire, spiegami, Simone, dimmi. No, secondo me qui il carabiniere ha toppato di brutto, cioè, tu che cazzo ne sai, scusa, spiegami che cosa ne sai che ha toppato quando non lo sappiamo nemmeno, cioè, ma che saprà quanto mi metto a fare, mi metto a sparare così all'impazzata, cioè, questo ha cercato di investire, civili, ha in America di li sparavano con la mitraglietta, con ma le bombe a mano, in Italia, e purtroppo, in Italia, purtroppo. Allora qua la riflessione che dobbiamo fare, la che cosa vogliamo? Vogliamo, sì, una polizia di repressione o vogliamo una polizia di prevenzione? Ma pensiamoci bene, una polizia di repressione, no, dai, ti prego, la riflessione sulla polizia di repressione, quel poliziotto è un giovane poliziotto, sicuramente sarà spaventato, che ha sparato, sicuro, di fronte, sicuro, all'investimento di una macchina guidata da albanesi, ma potevano essere italiani, ladri di macchine e di refurtiva. Non so dove avevano rubato l'oro che stava là dentro. Ha sparato a questa macchina che ha cercato di investirlo. Se un carabiniere non può sparare nemmeno in questa situazione, ma mi spiegate quando può sparare? Io non lo capisco. Chi ha detto che non può sparare? Chi no, ha detto che non può sparare? Perché evidentemente alla fine qualcuno ha detto che non può sparare. Sì, state travisando dicono. La realtà. Nessuno. La giustizia deve semplicemente accertare. Che hai fatto? Come sono no, la tosse. Come sono andate le cose? La giustizia deve accertare questo. Ma questo è scontato, dai. E allora questo, di questo si tratta. Ecco la speculazione di Salvini. Alberto dove sta. Da Catania, vai Alberto. Alberto. Pronto? Sì, pronto? Vai. Sì. Sì, dai, non fare lo spirito sull'accento. Dai, Alberto, dimmi, dai, forza. Ciao, io chiamavo per sostenere quello che ha detto Marione. Marione chi? Adinolfi ieri. Sì, sì, sì, riguardo sì, oggi non abbiamo pronunciato una parola su eutanasia, un altro è andato ad ammazzarsi in Svizzera. Esatto. Non abbiamo detto nulla perché non ne potevo più, francamente. Però vai, vai tranquillo. Vabbè, dai, no, niente, volevo semplicemente dire che dopo la chiamata che avete fatto voi tramite Andro Mercuri, cioè non capisco Andro, questo qua, Parenzo, sculacciolo un po' questo qua, Andro Mercuri, ma che cazzo Mercuri, sta dicendo? No, Mercuri. Mercuri, come si chiama? Andro Mercuri, dai. Come si chiama? Andro Mercuri, non è difficile Andro da pronunciare. Non è un nome Andro comune. Vabbè, allora ha un nome idiota, stai dicendo. No, ma no, perché detto devi questo. Dire così? No, Andro Mercuri, sarà mica difficile Andro, da pronunciare. Andro Mercuri, dai, non è difficile. Andro, se tu pensi Andro Mercuri, Andro invece della N, Andro Mercuri. Non sapevo. Andro Mercuri. Si presta un doppio senso. No, dicevo che dopo la chiamata che avete fatto ad Andro, fatta da Andro, sì. Non capisco come facciate ancora a sostenere questo discorso dell'eutanasia. Ragazzi, praticamente la telefonata voleva dimostrare semplicemente la finta telefonata di un finto depresso. Sì, che c'è uno che chiede informazioni, punto. Uno che chiede informazioni sulla depressione, ottiene diciamo udienza immediata da parte del signor altro. Poveri. Beh, insomma, in maniera un po' semplice, diciamo, lo avvia al percorso da fare, il certificato e medico. Normale? Beh, a me sì, io sono a favore di questa cosa, cioè, comunque a me sembra normale, assolutamente. Se tu avessi un parente depresso, ti piacerebbe che... Ma se lui si vuole ammazzare, cercherò di convincerlo a non ammazzarsi, ma se si vuole ammazzare e non me lo vuole dire, io tanto non ci posso fare nulla. Se me lo dice, gli dico no, guarda, è meglio di no. Ma se poi uno, distrutto dalla depressione, come è successo, per fortuna poche volte succede, non è che tutti i depressi si vogliono ammazzare andando in Svizzera, magari si ammazzano in un altro modo, o cercano di curarsi, oppure si buttano dalla finestra, non lo so. Quindi non pensi che questo sia un'istigazione al suicidio? Assolutamente no. Io non lo penso che sia istigazione al suicidio. È un servizio, come diceva Parenzo, che viene offerto. Certo, costa, perché in Svizzera no, costa. No, ragazzi, non possiamo dare questi messaggi. I messaggi di che? Ma quali messaggi? Qui non è che c'è la corsa alla morte. Ma non c'è la corsa. Ma chi l'ha detto? Ma non c'è la corsa alla morte. Ma qual è l'incitamento alla... Il caso di Fabo è totalmente diverso. Qual è l'incitazione? Ma qual è l'incitazione al suicidio? Qual è l'incitazione? Ma nessuno dice che la gente si deve suicidare. Qui non c'è nessuno. Tu stai dicendo, ragazzi, alla fine è normale, uno chiama lì, insomma. Sì, ma non è che, ma non è che magari... si risolve in 5 minuti, si risolve in un tempo più lungo perché la depressione, bisogna provarla. Ma non importa, hai sentito che lui oltretutto diceva anche, suggeriva anche di insomma, bene o male, di non dico taroccare le cartelle cliniche, ma diceva insomma di partire, non di... È chiaro che se dice un medico, è chiaro che se dice un medico devo andare in Svizzera ad ammazzarmi, fammi il certificato, quello può dire no, non te lo faccio. E secondo te perché non te lo fa lo psichiatra? Cioè, non te lo fa perché magari è contrario all'eutanasia. No, perché è assurdo, perché tu stai andando a istigare. Ma se uno, uno non è padrone di ammazzarsi, e questa è una cosa assurda, si parte alla fine tutte le discussioni devono essere ridotte alla loro semplicità, alla loro essenza. Uno può essere libero di ammazzarsi, può disporre di questa minchia di corpo cadente, come quello di Parenzo, sì, cadente, questo, flaccido, ma flaccido, tu sei flaccido, più vecchio, macerato, ma macerato, ma anche in palestra, ma che macerato, grasso, laido, ma grasso, manco per niente, peraltro. Ma io l'avrei fatto al posto di Fabio. Il problema è che ti sto dicendo è che ci sono dei casi in cui tu non puoi istigare le persone a farlo, oppure nel caso in cui tu hai un parente disabile, cosa fai? Cioè chiami, fai chiamare e te ne liberi. Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? Fermo lì. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. La Zanzara. Ma quale Mauro da Mantova, che già di stronzi ne sento abbastanza tutto il giorno blaterare. Buttate via la chiave, basta Mauro da Mantova, vaffanculo! Assolutamente sì, Mauro da Mantova tutta la vita. Mauro da Mantova tutti i giorni, almeno un quarto d'ora come opinionista. Sì! Mauro da Mantova e Donato da Varese a giorni alterni. alla Zanzara. No, no, no, basta Mauro da Mantova, ci ha rotto il cazzo, basta, basta, basta. Mauro da Mantova! Vai a Radio Padania, venduto di merda! Allora ragazzi, popolo della Zanzara diviso, Parenzo, ma nei sondaggi per il momento online sui vari profili, non solo quelli nostri ma anche del Riccardo da Roma e altri ancora, prevale il ritorno di Mauro, prevale il ritorno di Mauro. Noi aspettiamo mercoledì, domani sera, prima del verdetto definitivo. Mamma mia, mi raccomando, facciamo la borsa chiusa, che non vorrei mai ci fossero dei turbamenti sui mercati, per carità. intanto il signor Mauro si esprime così nei tuoi confronti. Io non voglio dire niente, Nei miei, perché nei miei? No, nei confronti c'ha questa fissazione dell'ebraismo. Ma perché uno è fissato così? Cioè, siamo veramente perché alla... Perché è un malato di mente. Tu dici? Ancora. Beh, no, tu dici, ma è abbastanza oggettivo. Quando è nato Luca là, a Radio 24 Roma, Parenzo, quel coglione ebreo merdoso, schifoso, infame, e repellente e ripugnante, gli ha sequestrato lo smartphone. Ma chi? Luca chi? Non si capisce Luca chi? No, l'episodio al quale fa riferimento il disturbato mentale, il depensante disturbato mentale è questo. È venuto un ragazzo qualificatosi qui a Roma in studio come uno del Riccardo Roma Fan Club. Ovviamente, siccome sono una persona gentile e educata, l'hai fatto entrare, l'ho fatto ovviamente entrare nel Sancta Sanctorum. Sì, era una persona anche civile, ben vestito, dice di fare l'universitario. Era un emissario di Mauro. Rasato e pulito, e si è seduto qui a ascoltare un po' di trasmissione. Mentre eravamo qui mi ha fatto vedere che lui ha una chat con questo Mauro da Mantova. Allora gli ho detto dammi il telefono e gli ho fatto i messaggi vocali dal telefono suo. Da lì è nato il famoso complotto per cui sarei anche responsabile della morte di Aldo Moro evidentemente adesso in questo momento, capito? Perché ho non rubato, col consenso di questo simpatico ragazzo del Riccardo. Visto, semplicemente visto. Sì, che è venuto qui, gli ho detto mi dai il telefono, facciamo uno scherzo. Ah sì, divertente, dai dammi idea. Nella chat in cui, perché sta gente malata di mente del Riccardo da Roma Frank Club, chattano con questo Mauro da Mantova, tanto per darti. Poi dici il livello del paese è basso. Beh ragazzi, sì, indubbiamente è così. C'è un analfabetismo di ritorno, indubbiamente è così. Senti ancora. Sentiamo ancora. Quel bastardo di Palazzo, io lo so, è classico ebreo, gli ebrei sono bastardi, cioè non è una novità. Gli ebrei sono bastardi, trafficoni, complottisti a prescindere. Infatti io di un ebreo non ho amici, non ne voglio neanche avere. Io di un ebreo non lo voglio avere come amico, ma anche se è buono, non lo rifiuto, non voglio avere amici ebrei. Avevo un'amica in chat, mi ha detto che è ebrea, non l'ho più cagata. E lei ha cercato, no, io non la cavo più, è di Milano, della Brianza. Mauro da Mantova, ecco, sì. Vabbè. Allora ragazzi, a proposito di quello che è successo a Macerata al carabiniere, ma ce n'è un altro, ce n'è? Mettiamo, dai, ce n'è un altro. Io non voglio avere amici e amiche ebrei, zero. Scusa, mi è sfuggito. Questo voluto che mi è sfuggito perché sto mangiando. Signor Mauro. Ridono tutti qua. Ma è un caso, poveretto. Io non voglio avere amici e amiche ebrei, zero. Scusa, mi è sfuggito. Questo voluto che mi è sfuggito perché sto mangiando. C'è capito con chi hai a che fare. Ma tu con questo qua ci vai anche a cena. Cioè, secondo me la cosa preoccupante tua è anche questa ormai, cioè tu sei diventato uno di questi sei diventato uno di loro. No. Ma sì, alla fine sì. Adesso poi dirai Parenzo frequenta solo degli snob, cioè, io tendo a frequentare persone tecnicamente, tendenzialmente anche più intelligenti di me, cioè mi fa piacere, no? Ma non è snob, capito? Tu sei diventato uno di loro, ormai sei un ma certo, puzzi, scorrevi, rutti, cose, non ti lavi. No. Sei uno di questi personaggi che hai creato, sei uno di loro, un apprendista stregone. Fermi tutti, adesso torniamo a Macerata, dove torniamo quel carabiniere ha sparato al romeno in fuga col bottino. uccidendolo, è morto dopo 70 ore di agonia, lo hanno incriminato naturalmente il carabiniere, spaccatura come al solito, oltre che tra me e Parenzo, tra chi sostiene che è giusto indagare, eccetera, eccetera, giusto è, e chi invece dice no, quello è carabiniere, insomma, se non si spara in questi casi, quando si spara? Io ricordo che c'era un deputato della Lega, dato che la Lega ha annunciato un presidio per sabato, un deputato della Lega, te lo ricordi? Com'è che si chiamava? Eraldo Isidori. Eraldo Isidori. Sì, dai, Eraldo Isidori è quello che ha intervistato la Leiani, che non sapeva nulla, non sapeva parlare anche poco italiano. Cioè, ecco, appunto, poi dopo dici, capito? Vabbè, comunque. Chiamiamolo, sentiamo. Non è più deputato, ma è sempre leghista, mi sembra. Sentiamo, Eraldo Isidori, Lega Nord. Pronto? Isidori? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24. Come sta? Oh, bene, bene, tutto a posto. Come andiamo fuori dal Parlamento? Andiamo bene, sto qui in officina, lavorando con mio figlio, gli dava una mano. Ah, ma lei è dal Parlamento e finita l'officina? Sì, perché ero un artigiano io. Ah, ma quanti anni ha lei, Isidori, scusi? Io sono del 40, ho 76 anni. Dunque già sta prendendo il vitalizio, diciamo. È quello che non ho preso, per due mesi ne ho fatto il tempo. Il vitalizio, quando il governo è caduto, che è andato Monti, sì. Il vitalizio mancava due mesi per prendere il vitalizio, non lo prendo. Ah, no, lei non prenderà nessun zero? Zero, zero. Mazza, che sfiga però. È sfigato, sì, si è sfigato, sì, sì. Senti una cosa, Isidò, ma tu sei ancora della Lega? No, perché so, che sei matto, chi ti muove? Ma per forza, leghista tutto d'un pezzo, no? La Lega, sono andato con la Lega e finisco con la Lega. Vabbè, certo. Finisce proprio, certo. Cioè, sei proprio molto salviniano? Salvini ogni tanto mi manda i messaggi. Adesso viene un sabato qui a quello che è stato ucciso, quel carabiniere ha ammazzato quel delinquente che stava facendo una rapina su una famiglia. Ho visto. Che vogliono fare a sto carabiniere? E questo carabiniere lo processa, lì sul giornale c'è scritto delle balle che per fa specie per quella persona che lo processa per pagargli i danni e le cose, ma che stiamo scherzando? No, non ho capito niente, scusi, si nulla, nulla di niente. Allora, questo carabiniere... Che ha fatto? Viene processato perché ha ammazzato questo albanese. Sì, allora... Certo, ovvio. E ce la difende, lui come Lega lui... Difendiamo, giusto? Sì, è giusto, giusto niente, che giusto, no, aspetta, scusi, aspetta. Vai, aspettiamo. No, voglio dire, andate a difenderlo in piazza, no? Sì, facciamo una manifestazione e ci vai pure tu, ci vai pure tu, ci vai? Sì, sì. Per forza. Io ho diversi amici qui giù e sono ancora conosciuto, mi vuole bene. Senti, ti faccio qualche domanda, ma che ne pensi dell'eutanasia? Prego? Che ne pensi dell'eutanasia? Non ho capito. Che ne pensi dell'eutanasia? E che vuoi che ne penso? Che vuoi che ne penso? Che qui non lo so come avevo pensato. Io la politica si hanno niente più dietro come prima, capito? No, beh, certo. L'eutanasia per gli immigrati, però, magari solo per gli immigrati? Va bene. Gli immigrati sulle partenze là, se barcano, bisogna fermarli. Certo, ci vorrebbe l'eutanasia per gli immigrati, quindi. Basta vedere la parola immigrati, è evidente. Eraldo, sì. Eraldo, volevo capire, ma DJ Fabo lo conosci? Chi? DJ Fabo. No, non lo conosco. Ma sei d'accordo o contrario all'eutanasia? Sono d'accordo, dai. Cioè che fare? Saluto che mi sta chiamando uno, dai, grazie. Eraldo, tu. Aspetta un attimo, due domande e poi ti lascio. Sai che cos'è il Jobs Act? La tua opinione qual è? Non ho capito. Sai che cos'è il Jobs Act? No. Senti, invece voglio capire una cosa. Tu che ne pensi degli eterosessuali? È un casino. Meglio non parlarne. No, gli eterosessuali, che ne pensi? Meglio non parlarne di questa roba, dai. No. No, ma voglio capire che ne pensi degli eterosessuali. No, non gli rispondo, dai. Ma perché non me lo rispondo? Perché non me lo risponderà? Io te lo rispondo, dai, sono cose molto delicate, dai. Ma no, gli eterosessuali, che ne pensi? Cioè, che giudizio dai sugli un giudizio che non si può fare quella roba là, dai. Cioè, non si può fare l'inculata tra i gay, dici? ma stiamo scherzando, su, è uno schifo, schifo proprio. Uno schifo proprio, tu dici. Cioè, gli eterosessuali non ti piacciono proprio, gli etero. No, vai via, vai, per carità, non puoi parlarne. E poi i Rom? E i Rom sta a casa sua perché vengono qua, fanno casino e basta, perché non lavorano. E cercano i soldi nostri, stanno sui supermercati, chiedono un euro. E che bisogna fare? Bisogna dare 5 anni sul posto, te guadagni da mangiare da te stessi senza che gli agi da mangiare noi. Dai. Cioè tu dici bisogna recintarli? Recintarli sì, perché sono gentaglia. Gentaglia. Tu sai che cos'è il Glory Hall? No. Quello che sta... Saluto, Mattarello, mi hai fatto tante domande. Quello che sta nei club gay, sai, sei mai andato in un club gay tu? Ma cammina, ma sta scherzando. Ma perché? Ma che male ti hanno fatto? Se uno si avvicina e te vuole... Non è normale, non è persone normali. Queste sono tutte persone che sono ammalate, dai. Ma se uno si avvicina e ti vuole toccare il sedere a te, tu che fai? Ma vai, ciao, ti saluto, ciao. Ma amico mio, ma succede ogni tanto, eh? Ciao. Mi sta deludendo quasi tutto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Arenzo che scrive il libro per l'euro, per l'Europa. A parte che vabbè, se sa che non capisce un cazzo d'economia. Ma Stiglitz che lui cita sempre, forse perché è ebreo, adesso non lo so se è ebreo, ma comunque lo cita sempre. Ma lui lo sa, Stiglitz, cosa pensa dell'euro? Andasse a cercare gli articoli, ce ne sono centinaia. Ma è veramente un pagliaccio, va. Dentro la gabbia ci dovevano mettere quell'imbecille di Parenzo, quel coglione, quel cornuto che difende gli zingari. Bastardo, porco! Parenzo, io ti vorrei aprire la testa con l'ascia di Jack Nicholson in Shining per vedere che ci sta. O c'è la segatura, oppure c'è la sabbia, oppure è andato in putrefazione qualcosa, perché se no non puoi ragionare così. David, la canzone che tu reputi una schifezza è degli Zen Circus e ti garantisco che parla di tutt'altro fuorché di discriminare gli zingari. Ti invito a leggere il testo perché secondo me potrebbe anche piacerti al posto di ascoltare quella merda di Calcutta. Ciao. Facciamo un delirio! Ti puoi stare nell'angolo rottile della vita. Ti devi spaventare. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Ma mi pare che sia, vai a fare a posto. Ti puoi stare nell'angolo rottile della vita. Ma che oh! Non è il cortile? No, ma è sopra evidentemente. Ma bisogna essere degli stronzi però, Va, vediamo, dai. Poi le fa apposta. Hanno fatto un montaggio. Capito. Hanno fatto un montaggio. Abbiamo dovuto togliere qualche cosina, diciamo, no? Credo di sì. Un montaggio. Con Mosconi e l'urlo delle zingare. L'urlo delle zingare, sì. Ormai non riesco, ogni giorno che andiamo in onda non riesco a immaginare fino a dove si può sprofondare. Però evidentemente il pozzo è ancora profondo. Ancora. Facciamo una trasmissione da urlo. altro sano di mente. Mi hanno segnalato altro sano di mente. Che in realtà mi hanno segnalato che c'è un rabbino di un film. Un film che si chiama Simon o Simon Konianski. Vabbè, certo, in cui c'è la figura di un rabbino che fa il vecchio saggio, che dà dei consigli. Certo. E praticamente che ha una soluzione per tutto, no? E dunque consiglia a un certo punto a un signore che vuole liberarsi del figlio che abita dentro casa, che ancora non se ne va da casa, che cosa fare. A un certo punto gli dice: beh, puoi tranquillamente pisciare nel lavandino. Grazie, rabbino. Grazie. Dimmi, tieni sempre la TV al massimo? Sì. Gli proibisci di fumare? E non ha ancora deciso di andarsene? No, rabbino. E allora piscia dentro il lavandino. Ma papà, che schifo, non puoi pisciare nel cesso come fanno tutti. È casa mia, se voglio pisciare nel lavandino, io piscio nel mio lavandino. Io non so se alla fine se ne va il figlio, dopo che il padre disperato va a pisciare nel lavandino. Ho mangiato delle frappe, come si dice a Roma, delle cose fuori qua, mi è venuta una cosa alla gola. Ernesto, allora, da Bari, intanto, vai, il nostro rabbino, quello che non hai chiamato più e che poverino, sì, invece è, comunque ti saluta. Se vuole parlare di froci, parliamo, sì, di froci nell'ebraismo. Ti saluta, ti ringrazia, altrimenti... Però lui continua a seguire, a monitorare questo inferno in terra sostanzialmente. Ma ha mandato una barzelletta meravigliosa che però adesso io purtroppo non trovo, perché nelle chat te la trovo subito. Eccola qua, la barzelletta del giorno. La moglie al rabbino: caro, ma tu non mi compri mai niente? E il rabbino: ma moglie cara, non sapevo nemmeno che tu volessi vendermi qualcosa. Genio, eh. Bah. Vabbè, Ernesto, Bari, vai. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Volevo fare una domanda a Parenzo, perché è da qualche giorno che mi sto ponendo una domanda. Ecco. Sì, fai una domanda a Parenzo, dai, fai una domanda a Parenzo. Siccome che vedo, sento spesso che lui carta e penna, querela di qua, querela di là, invitava prima te a querelare, che ne so, come si chiama lì, Carabue. Vabbè, allora? Ecco. E mi domandavo, ma lui ha querelato Maurizio Gasparri dopo quante venne addette? No, non abbiamo, perché io non querelo nessuno, né lui né. No, né vabbè, io. Tu Cruciani. Ma non ho capito perché dovrebbe. Ma non ho capito perché dovrebbe querelare Gasparri, che ci ha attaccato pubblicamente qui. Perché, perché ne ha dette vabbè, tante, ma che c'entra? Non è che tutte le cose. Non è che. Vabbè, Ernesto, non l'ha querelato, non l'ha querelato, chiaro? Ah, bene. No, era una domanda che mi ponevo. E poi ma perché fare... ti ponevi questa domanda se Parenzo ha querelato Gasparri? Perché sento dire spesso a Parenzo, che ammiro tra l'altro come persona per quanto riguarda educazione e buon senso. Ecco, che, vabbè, ciao, Paola Modena, comunque. Vai, Paola Modena. Paola, dimmi. Pronto? Dimmi, Paola, dimmi. Buonasera, volevo signora. Fare una riflessione con Parenzo, perché sì. Non capisco, ecco, lo so, qua. Sarò noiosa perché sì, abbastanza, parlano come... tutti dei rom, sì. Però io la penso come lui, nel senso che le persone non devono essere discriminate, per l'amor di Dio, però lui ha mai subito un furto da un rom. Allora io il 22 dicembre mentre facevo la spesa mi hanno rubato la borsa. Eh beh, questo è grave. Dove, come mai l'hanno rubato la borsa, signora? Perché fanno quello i rom al ma che ne sa portale. che ne sa, no, che erano dei rom? No, erano dei rom, perché tutti i giorni mi sono trovata in questura con altre decine di persone che nel parcheggio dei portali a Modena della Coop, siccome dietro c'è un campo rom, loro fanno quello. Ma d'altra parte, voglio dire, non ho scoperto l'America. No, questo è molto grave, questo è molto grave. La signora... è molto grave. Nella borsa io, perché che c'aveva? Avevo delle cose che mi scaldavano il cuore, tipo? Nel senso le chiavi di casa. Beh, le chiavi di casa non scaldano solo il cuore. Poverina, mio marito che è morto. Non ho capito che c'aveva di suo marito che è morto, non ho capito. Le chiavi di casa anche. Certo. Usavo le sue ogni volta che le prendevo in mano. È un valore affettivo. Certo, ha un valore affettivo per la signora, le chiavi di casa del marito, che vuol dire? Ma tu sei un animale. Ma l'animale no, ma vero sei di casa tu del marito, dai. La signora poverina ha subito il trauma, per carità, non soltanto della borsa, io la capisco, ma addirittura di un affetto. Non me ne frega niente della borsa, perché se loro prendono, quanti soldi c'erano, signora? Quanti soldi? Ma ti sta parlando di di un'altra cosa che ha più valore. No, 400, che stai scherzando? Cioè, sì, però è più ferita delle chiavi del marito, capito? Ma che ne avrei pagati altri 400 io per riavere. Io la capisco, un bigliettino, signora, di mio marito, ma che... farò sciocca. Ma c'era però... pure il bigliettino, c'era? Guarda, tra l'altro. Che cose... c'era di suo marito, signora mia? Ma non sì, può te... delle cose di mio marito. Ma non tenga tutto in borsa, pure ma lei che te ne va frega in giro te, con la borsa con le cose del marito morto. Adesso. Abbi pazienza. Scusa, io faccio fatica ma a fare. Ma certo, signora, ha ragione. Tutto. Certo. Mi consolo sì, però... con quello ma che credo io. Ma va bene. Brava, brava. Della gente, perché mi bastava prenderlo in mano, questo bigliettino, insomma, delle cose. Ok, poi, ma lo lasci a casa, ma lo lasci a casa queste cose, non le porti dietro. Signora, non dici. Le devo portare dietro perché il rom. Esatto, ruba, ma no. Uno, ma scusi, è come uno che va in giro. Lei, signora, è anziana, non sarà anche no, abbastanza. Beh, adesso poi. Sarà anche abbastanza distratta, no? Io ma io glielo dico con affetto, no, scusa, le cose cui uno tiene, le cose che non sono anziana, cioè le cose che uno sì. Mica sclerata, no, appunto, quello appunto, però appunto. Signora mia, le cose cui uno tiene, no, se uno tiene a delle cose lì, non se le porta dietro in borsa, se le lascia a casa, le fotografie. Vabbè, comunque lei l'ha portata in borsa, vabbè. Allora? Cioè, perché, a parte che nelle borse delle donne c'è il mondo, è vero, perché ma uno, voglio dire, sarà libero. Allora io dico a Parenzo. Diciamo io a Parenzo, che, sì. Sì, a Parenzo. Parenzo perché, è a favore dei rom, Parenzo. No? Sì, perché con te ma non dei ladri. Non posso parlare perché eri l'idolo di mio marito, io ascolto la zanzara. Non era morto perché... suo marito, scusi. Beh sì, perché c'entra? Era l'idolo di mio marito. Ah, era, ho capito, è l'idolo, ho capito. No, era. Ma quando no, è morto guarda, suo marito, signora, scusi? 2 anni fa. Mamma mia, mi spiace. Ecco, e di conseguenza io ho incominciato ad ascoltare la zanzara perché lui ascoltava sempre la beh, zanzara. Era, e l'idolo era Parenzo, l'idolo di suo marito no, era Parenzo. No, sei tu, dai, non prendermi beh, in giro che non sono... Ma l'hai detto, l'ha detto prima? Ho detto... Cruciani, non, con te non parlo perché eri l'idolo di mio marito. Però e perché io non parla? Perché non può parlare perché con me? Perché magari si emoziona, ho capito, ma perché gli devi dire così? La signora ha una sensibilità, dai. Sì, no, ma perché non parlo? Perché comunque lui diceva sempre che avevi ragione, per cui io non mi voglio proprio mettere contro di te. Però dico sì, a Parenzo, eccomi, appunto, signora, Parenzo andiamo contro Parenzo, dai. Sì. Andiamo contro Parenzo, ecco, signora, che, sì, prego. Che fare tutta sta polemica perché le hanno chiuso in una gabbia, per l'amor del cielo, non è da dire che deve essere combustibile. Però, non, però lasciamoli in pace questi due dipendenti della Lidl, no signora? Esatto, esatto. E io però Parenzo sono curioso di... Ieri come se le avessero tolto le unghie, ma dai. Ma dai, dai, dai, dai. Signora, però io sono fanno loro. Certo, sono curioso di sapere appunto quello che hanno fatto a lei. Dentro la sua borsa cosa c'era di suo marito? Io sono abbastanza curioso, cioè... Ecco, allora, le chiavi, le chiavi di casa che erano le sue. Ogni volta che le prendevo in mano sentiva cioè, il calore, sentiva il calore. Sarà sciocco, però. No, che sciocco, per carità, assolutamente. Poi avevo un biglietto sul quale non ti dico cosa c'era scritto, che mi aveva scritto lui, sì. Avevo una foto, avevo un portachiavi di una macchina che tra l'altro avevo trovato. Tutto rubato? Tutto questo rubato? Tutto? Tutto. Allora tutto, questo cazzo di rom di merda dove erano? Aspetta adesso mi incazzo perché adesso va bene tutto che secondo me lei doveva lasciare questa roba a casa, andava lasciata a casetta dentro, dentro il cassetto, lei prende, si ricorda suo marito, si emoziona, piange, fa quello che vuole però a casa sua, cioè non è che si porta dietro la borsa che non serve a niente durante la giornata che sono ma non serve fuori, a niente portare dietro la borsa, però accantoniamo questa cosa, accantoniamo vabbè, questa adesso che non sia colpa mia perché no perché dai, però ma mettiamo cosa, ma cosa le dici no però mettiamo da parte questo argomento Paolo. Paola, mettiamo da parte quell'argomento che secondo me lei questa roba qui in borsa la doveva tenere a casa. Mettiamo da parte questo. Adesso, signore mia, io mi incazzo. Ha già subito il furto. Mi incazzo con i signori rom della coppa. Lei mi deve dire esattamente quale coppa è. Mi dica esattamente quale coppa. Vedrà che io le faccio ritrovare tutto. Cos'è che le hanno rubato questi bastardi figli di puttana, pezzi di merda? Lo deve dire pure lei, però. Sono dei bastardi figli di puttana, pezzi di merda. No, però, signora, prima mi dica questo. Questi signori rom che mi hanno rubato le cose di mio marito, cui io tengo tanto, il portachiavi con le chiavi, la foto, il bigliettino, sono degli infami luridi pezzi di merda. No, ma questa giusto? Ma io lo dico, sai cosa ho pensato? No, ma me lo dica, sono dei pezzi di merda, la voglio sentire dalla sua. Sono dei pezzi di merda, ma bene, io ottimo. Subito quando mi hanno detto saranno stati rom in questura, me l'hanno detto, ho detto ma datemi il camion di Berlino che entro nel campo. Beh, ottimo, perché ottimo. Che vuol dire il camion di Berlino? Non ho capito. Il camion che quello a dell'attentato. Berlino entra... dell'attentato. Beh, amica mia, amica mia. Siamo al top assoluto. Prendiamo il camion di Berlino imbottito di tritolo. No, ascolta. Beh, come no? Il camion di Berlino, se no come? Con una doppia sofferenza, perché io non sarei così. Non è però così. Però ti inducono a pensare così. Perché quando ti vengono proprio a violentare quella che è la tua anima, non puoi rimanere sempre lì, poverini, siamo tutti uguali, ma col cavolo! E dunque prendiamo questo camion di Berlino. No, dai, l'ho detto per dirti l'assurdo che invece vorrei. Però allora aiutarti. Mettiamo Paola, mettiamo le cose in chiaro. Dammi una localizzazione importante, una localizzazione. Sì. E la COP dove è avvenuta questa porcheria? Questa Portali. Schifezza. Portali si chiama. Che è Portali? I portali dov'è? A Modena città? A Modena, fianco alla questura. Pure di fianco alla questura. Allora, cari poi amici miei. Un campo rom. Allora, tutto, c'è tutto, la COP, le cooperative, chissà che c'è sotto, le cooperative, la questura, la signora con la roba del marito e anche il campo rom dietro. C'è proprio un concentrato di porcherie. Sì. Allora, io dico una cosa. Cari amici del campo rom vicino ai portali, avete rubato delle cose preziosissime a questa signora Paola da Modena, le quali dovevano essere lasciate però a casa. Però questa è la mia considerazione, lasciamo perdere. Che sono le chiavi, non ci fate niente con queste cose. Lei ha cambiato le chiavi, però le chiavi di casa le ha cambiate. Dunque non potete più rubare nemmeno a casa della signora. Il bigliettino della signora e altre cose ancora. Non mi fate incazzare. Campo rom di Portali, amici rom che ci sentite. Parenzo, fallo tu l'appello, perché gli amici rom sono i tuoi, i miei. Beh, non sono ma amici rom. Li conosco io, però. Amici rom di Portali, restituite almeno, se non i soldi, perché i soldi ve li siete inguattati e va bene, ormai non li restituite perché siete dei ladri matricolati. Almeno le cose fondamentali per Paola. Io il giorno dopo sono andata con una zingara lì. Allora che è successo? Ecco, perché sono... ero all'era e c'era una zingara che chiedeva l'elemosina. E che è successo? E allora gli ho detto, guarda, mi è successo questo ieri, io sono disposta anche a darti altrettanto, però per favore mi fai trovare le cose che avevo dentro la borsa, che a loro non gliene frega. Esatto, metto. Cari amici del campo rom, questura del vicino al... ritrovate le cose della signora, che è successo? La ritrovate o no queste cose? Ho trovato, ha ritrovato qualcosa, dice lei, ha ragione, si è lucida. Niente. Allora sono andata con questa zingara. E lì appunto con lei. E che è successo? Perché mi ha detto portami lì che così io vedo dove possono essere scappati. E allora? Mi ha detto ma com'era la borsa? Ho detto grigia, che cos'è grigio? Dunque, andiamo veloce Paola, veloce allora. E dice poi com'era? Ho detto di coccodrillo, fa non la trovi più. Vabbè, allora hai il numero di telefono di questa zingara? Hai il numero di telefono di questa zingara? Ottimo. Allora dammi il numero di telefono, poi ti... Ciao. Ma Paola, vuoi essere aiutata o no? Vuoi essere aiutata oppure no? Ma sì, ma lei mi ha detto che mi aiutava. E allora non ti preoccupare, facciamo noi, faccio io, vedrai che risolve. No, ma lei non era di... Ma mica devi andare lì. Ma non ti preoccupare, facciamo tutto. Sono andata lì con lei, però lei ha stato lì un'ora, ma lei mi ha detto, guarda, se la borsa era di coccodrillo... Ma tuo marito nella vita è stato uno fedele oppure era un puttaniere? No, un amore. Non era un puttaniere, no? No, no, cioè forse lo sarà stato quando però non era con me. È quando... una storia bellissima la mia. Cioè non era un traditore, un puttaniere. No, no, guarda, vedi Parenzo, vabbè, che lui è buono di modi, vabbè, e di forma, vabbè, si lascia perdere, perché è veramente una cosa, vabbè, molto molto, vabbè, bella. Ciao, ciao, ciao. Anzi, Paola, sono contenta. Però Paola, ti devo salutare. Se tu non vuoi, ti faccio complimenti, perché lui era innamorato di te. Ciao. Lo so, ciao amica mia. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Ah, andiamo avanti, andiamo avanti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Stai zitto, ciucciacazzi. Radio 24, libera la voglia di fare.